lapsi della mente, la psiche annulla sinapsi, lapsus con cui si rimane settimane distratti, pensieri astratti a scatti creano paesaggi, pessimisti tipo leopardi smontano cardini, svegliami da questo incubo, piango, sono furente idrofobo, soffoco a periodico, il sentimento sarebbe subconscio che ho dentro, a farmi sto scherzetto, conforto nel letto perché il tempo scorre dormendo, sta facendo guerra nel cervello, hanno le dita sotto il letto, lo ammetto, è successo descriverlo, manco adesso riesco, cercando un nesso, se ci ripenso, complessi come fastidi, come disconnessi, resto in catalessi, in classe bianco come gessi, ma sì, passerà con qualche colpo di insomnia, cerco soluzioni su Omnia, ma che risposta c'è? Complessi nella testa, sono complessi come Tetris, non c'è prassi, complessi, compressi, speri che passi con compresse, ma la mente gira come coi compassi. Complessi nella testa, sono complessi come Tetris, non c'è prassi, complessi, compressi, speri che passi con compresse, ma la mente gira come coi compassi. Cascassi in quel mondo, non farei ritorno come defunti, con psicologo ogni giorno che prendi appunti. Quei giorni brutti sono i frutti dell'immaginazione, di ritera angosciosa in continuazione pone sacrifici, forse saranno i grigi di questa città quando piovigina. Spremo le meningi con le lacrime dipingi e finisci che lasci con i fuori corsi in università. Ci si dispera, senza avanzi una chimera, la vita come al bar, a volte non leggi la lista intera. La strada è meglio se la scegli, magari sbagli e ti penti, fumi i tuoi problemi alla Hendrix, magari solo un Matrix, hai problemi strani da cui fuggi con le ASICS. Voi, voi, voi! Quasi un esaurimento nervoso, sono in fase REM, lasciami a riposo, riposo. Complessi nella testa, sono complessi come Tetris, non c'è prassi, complessi, compressi, speri che passi con compresse, ma la mente gira come coi compassi. Complessi nella testa, sono complessi come Tetris, non c'è prassi, complessi, compressi, speri che passi con compresse, ma la mente gira come coi compassi.